ci si riprova. Ieri sono esattamente partite 60 barche dal porto Xifonio di Augusta, e in realtà non sono solo barche italiane, c'erano anche le 39 barche che erano arrivate da Barcellona, che si erano unite appunto a quelle che erano ormeggiate ad Augusta, e gli equipaggi poi sono costituiti da persone che arrivano veramente da ogni parte del mondo, e dalla Nuova Zelanda all'Ucraina, alla Malesia, all'Indonesia, quindi gli equipaggi rappresentano un mix di paesi. E ci si riprova perché a Gaza la situazione non è cambiata, a Gaza continua ad essere in corso un genocidio. È vero, l'intensità bellica è diminuita, e su questo non c'è dubbio, non abbiamo dubbi, nel senso che i tecnici definiscono questo un genocidio a bassa intensità, che è un'espressione gelida per dire che muoiono un po' meno persone. Però il problema è che comunque non va bene neanche così, perché da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco sono stati uccisi quasi 800 palestinesi a Gaza dall'esercito israeliano, esercito che oggi occupa il 60% della striscia di Gaza, e tutti i palestinesi sono stati spostati nel restante 40%, io vi ricordo che la striscia di Gaza è piccolissima, dove vivono ammassati in delle tendopoli senza acqua potabile, senza servizi igienici, senza cibo, senza farmaci. Quindi le barche portano di nuovo, come l'anno scorso, cibo, farmaci, ma soprattutto di nuovo come l'anno scorso cercheranno di rompere quel blocco navale, che è un blocco navale illegale per l'ONU e per la Corte Internazionale di Giustizia, perché agisce come una punizione collettiva su una popolazione civile. Quindi quest'anno le barche hanno gli stessi obiettivi dell'anno scorso più un obiettivo in più, aggiuntivo diciamo, perché a bordo abbiamo tantissimi medici, infermieri, educatori, eco-builders, ingegneri, cioè delle figure professionali che hanno deciso di unirsi a noi per arrivare a Gaza, scendere a Gaza e rimanere per contribuire a quella che ci stanno dicendo essere la fase della ricostruzione. Bene, se c'è una fase di ricostruzione, se c'è la pace, come ci vogliono far credere, allora questi professionisti che viaggiano con noi sono disposti a scendere e ad aiutare. Come sempre, perché insomma sono tante le flottiglie fermate, c'è l'incognita di come si comporterà Israele. Assolutamente sì, siamo perfettamente consapevoli del fatto che Israele potrebbe di nuovo e di nuovo illegalmente fermarci in acque internazionali, come ha fatto l'anno scorso e come ha fatto tutte le volte precedenti, a parte nel 2008 quando le prime barche riuscirono ad arrivare a Gaza. Siamo pronti ovviamente anche a questa opzione, che però sarà sempre meno probabile, tanto più ci saranno mobilitazioni e presidi, e quanto più da terra le persone ci supporteranno, perché io vi ricordo che l'anno scorso è stata la mobilitazione della gente da terra che ci ha protetto, la nostra protezione di fatto siete voi, quindi più ci saranno le voci che si alzeranno, le persone che chiederanno di lasciar passare la flottiglia, e più avremo delle possibilità per arrivare a Gaza, perché ricordo che quello che facciamo lo facciamo per Gaza, cioè il centro della storia non è la flottiglia ma è la Palestina. Volevo farti proprio una domanda su questo, perché l'anno scorso la vostra missione è riuscita a destare un po' anche una sorta di risveglio civile dopo 2 anni dall'inizio del genocidio. In Italia abbiamo visto manifestazioni oceaniche che non si vedevano da decenni, nonostante appunto le immagini su quello che stava accadendo a Gaza ci fossero da 2 anni. Sono le iniziative dal basso che possono aiutare a risvegliare le coscienze? Sì, io personalmente la penso esattamente così. Chiaramente non ho la verità in tasca, ma io penso che siano oggi, in questo momento storico particolare, specifico, penso che siano proprio le iniziative dal basso, perché ci troviamo di fronte a una fase in cui, beh, lo stiamo vedendo, vediamo cosa sta accadendo in Libano, in Iran, abbiamo visto in Venezuela rapire nella notte un presidente, poi ci può anche non piacere, Maduro, però voglio dire, era un presidente eletto in uno stato sovrano, rapito nella notte. Vediamo a Cuba, gli stanno facendo morire di fame, di sete. Ora c'è una deriva, come dire, imperialista, aggressiva, che sta accelerando moltissimo, ed è questo proprio è storia, no? Cioè lo leggiamo sui giornali. Quindi io penso che in questo momento, dove la maggior parte dei governi è di fatto complice di questa deriva, veramente gli unici che possiamo provare a fare qualcosa siamo noi, cioè siamo la società civile, e credo che non solo possiamo, ma dovremmo. Cioè in questo momento io sento forte il dovere di agire, perché abbiamo veramente l'impressione che lasciare andare questa deriva oggi ci potrebbe portare a un momento in cui poi diventi quasi irreversibile.